sogna fantasia, che pensa sempre che tutta vita mia finge volesse dire, ma non lo saccio dire. Che non mi scorda mai, è una passione più forte la catena che mi addormenta l'anima e non mi fa cambiare. Una lacrime lucente v'è caduta, decidemene poco a che pensate, che sto occhio d'oce voi sola me guardate, levamme c'è sta maschera e decimmo la verità. Che non si spezza mai, sogna gentile, sospira il mio perdono.